Qualcuno vuole intervenire? Avete qualcosa da chiedere? Com'è? Mi ha colpito molto il concetto di sostenibilità che poi, come dicevate, si lega, diciamo, alla parola chiave sicurezza in passato, quindi la carta di sicurezza, cioè, a livello locale qui le abbiamo vissute. Le leggi sicuritarie a livello comunale le abbiamo combattute, sono state sbugiardate in alcuni periodi, nel senso che erano solo parole chiave per poi fare cassa sostanzialmente e tenerci ancora più controllati. Volevo portare solo un piccolo esempio. Io sono educatrice, prima lavoravo in appalto, nel senso che ero con una cooperativa, sotto cooperativa, adesso sono tramite concorso sono entrata comunale. E questa parola della sostenibilità ricorre molto spesso da parte dei nostri direttori del personale. In realtà la sostenibilità è, vi faccio un esempio. Sono coinvolta in un progetto che mi piace, chiedo di poter fare delle ore in più di formazione o di lavoro per continuare questo progetto. Il tuo lavoro, le tue ore in più non sono sostenibili. Quindi è declinata a loro modo, cioè mi devi pagare sostanzialmente di ore in più e poi decidi tu dove vanno bene queste ore in più e dove non vanno. Però usano proprio la parola sostenibilità, cioè diventa una parola cattivante, no? In questo senso. Hanno anche dei piani orari adesso il Comune di Parma in cui abbiamo praticamente delle pagelle sulla sostenibilità, cioè hai un bollino nel corso del mese, hai un bollino nero o rosso a seconda che tu sia sostenibile o no dal punto di vista monetario, cioè della spesa del Comune. L'ultima cosa, si stanno preparando, essendo una piccola città, penso che si stiano preparando anche qui alla Smart City, e il nostro direttore del personale, in una riunione annuale, ci dice che la tecnologia ci fa fare dei progetti megagalattici di vivibilità, di maggiore vivibilità della città. Non dice quali sono questi progetti, dice però che la tecnologia ci farà prevedere se questi progetti saranno sostenibili e se andranno bene per noi, ossia nessuno, tutti applaudono, ma nessuno sa, vuol dire ci stanno già controllando per ad esempio costruire la pista ciclabile che va da qui a lì, spiando i nostri movimenti, l'algoritmo ipotizzerà che questa pista ciclabile è economica da qui a qui in ottica di competizione con le altre città, e questo non lo nascondono invece assolutissimamente. Perché anche dal punto di vista di quello che loro chiamano città sostenibile ecologica, loro si preparano a fare delle gare, no? Con le altre imprese che sono gli altri comuni. Niente, quindi penso che come sulla parola sicurezza, così come sulla parola sostenibilità, dobbiamo fare una battaglia locale che poi è globale, perché come dicevate voi, noi stiamo utilizzando tecnologia che sfrutta altre popolazioni, che implementa la guerra e che ci controlla, sostanzialmente controlla i corpi per far cassa o per risparmiarci. Qualcun altro? Qualcun'altra? Vado io allora. No, sì, grazie per, come dire, dare una visione sistemica dell'oggi, e io credo che appunto il femminismo non può che non tener conto delle oppressioni sistemiche sui nostri corpi. E per questo che non è strano parlare di Green Pass, non è strano di parlare di lotta alla medicalizzazione dei nostri corpi, non è strano parlare di tecnologie, smart city, città dei 15 minuti. In un incontro che prende il titolo Femminismo e ecco. E magari non lo so, possono sembrare tanti concetti e scollegati tra di loro, però io invece credo che siano tutti quanti parte di una stessa logica opprimente del potere ed espressione appunto dello Stato che è appunto autoritario, patriarcale e capitalista. Ecco. E quindi invito un po' tutte quante noi a ragionare insieme su come scardinare in qualche modo, facendo memoria anche della storia del femminismo, questo sistema di oppressione e cercando anche di farlo in maniera piacevole. Ricordo le parole di Silvia Federici sulla militanza della gioia e io credo che poi ci dobbiamo anche voler bene in questo senso e quindi cercare degli strumenti per scardinare un po' tutti questi meccanismi oppressivi che siano anche arricchenti per il nostro quotidiano. Da qui anche quindi l'importanza di prenderci cura di noi stesse. Come dicevo, un altro slogan che mi piace tanto, che recentemente hanno serigrafato delle compagne, è: se non ci prendiamo cura di noi stesse non possiamo essere pericolose insieme. E quindi il costruire comunità va un po' in questa direzione, è difficilissimo soprattutto nei momenti di difficoltà individuali di ciascuna di noi. E quindi ben vengano idee, ben venga voglia di fare. Scusami, le coordinamenta usano nel loro testo questa definizione che dobbiamo, per riuscire a sopravvivere in questo probabilissimo scenario appena descritto, provare a tessere reti di difesa e di offesa, solo così potremo forse divaricare le possibili crepe. Anche esatto. Le reti di difesa e offesa erano belle. Infatti. E sulla questione sempre di smascherare alcuni tentativi dello Stato di controllo e di perpetuazione del patriarcato, e anche secondo me l'attenzione alla tutta logica vittimizzante e infantilizzante che viene fatta sul corpo delle donne, in che senso? Con le politiche securitarie, quello è un altro tema di cui si parla anche in questo libro, e quindi avere un approccio, come dice Nicoletta poi di Mani, post-vittimista. Che significa? Cioè, se è vero che grazie al lavoro di tante donne ormai il concetto ad esempio di femminicidio e il termine femminicidio è entrato, leggo qui dal libro, a far parte del linguaggio mediatico, d'altra parte non è cambiata la rappresentazione delle bambine, delle ragazze e delle donne di tutte le età contro le quali è indirizzata la violenza. I giornali online, ad esempio, quando scrivono di casi di abusi, violenze domestiche, violenze sessuali, femminicidi, spesso accompagnano il testo con immagini oggettificanti e vittimizzanti. E tali immagini, esattamente come quelle utilizzate nelle pubblicità nella stragrande maggioranza dei casi, rappresentano parti del corpo, solo di rado il corpo intero, peraltro con il volto nascosto, le mani dall'altro lato, eccetera, eccetera. Queste rappresentazioni, così come poi i contenuti degli articoli stessi, intrinseci, morbosi, sortiscono un effetto di indebolimento delle donne stesse. Il medesimo dispositivo viene spesso riproposto anche nelle campagne antiviolenza. Se il modo in cui le donne vengono rappresentate è lo specchio della società in cui si vive, occorre distruggere queste rappresentazioni per liberare l'immaginario e mettere in atto un mutamento radicale della relazione con noi stesse e tra i generi. E da questo un po' che noi, per esempio, riteniamo che la pratica dell'autodifesa femminista è proprio concretamente uno strumento che possiamo attuare contro la violenza di genere, non solo banalmente, tra virgolette, per rispondere ad un'aggressione fisica e quindi imparare a fare le leve, eccetera, eccetera, cose che possiamo fare benissimo, ma anche per decostruire un immaginario che viene narrato sul nostro corpo ed è per questo che insomma la pratica dell'autodifesa femminista però deve essere una pratica non delegata al maschio di turno, che non può essere gestita dal comune, ma che ci dobbiamo anch'essa, di cui ci dobbiamo noi stesse riappropriare e far nostra e praticare mettendo in campo tutte le nostre energie e infinite abilità che possediamo, insomma. Quindi Quindi questo è un po' un invito ad una pratica concreta che volendo possiamo costruire insieme, ecco. Vorrei leggere un estratto dal libro. Io ogni tanto intervengo con dei punti del libro per fare il momento sponsor, no, ma è per seguire. E l'estratto è in realtà dal libro, da un'intervista di Rote Zora del 1984 e si chiama Formate le vostre bande. Il nostro sogno è che ovunque ci siano piccole bande di donne, che in ogni città, ogni stupratore, ogni commerciante di donne, ogni marito che picchia, ogni editore misogino, ogni commerciante di roba porno, ogni porco ginecologo debba temere che una banda di donne lo trovi per attaccarlo e ridicolizzarlo in pubblico. Per esempio, se aspetti che verrà scritto sul muro di casa sua, sulla sua macchina, al posto di lavoro, chi e cosa ha fatto. I porci hanno un nome, donne, cercate i loro indirizzi. Benissimo. Io volevo allargare un attimo la questione del post-vittimismo, nel senso, stavo per intervenire, poi hai detto quello che volevo dire, ma, no, ma secondo me c'è da tenere conto dell'ulteriore vittimizzazione e riduzione al silenzio di alcune categorie, soprattutto di persone, donne o presunte tali, socializzate tali, persone disabili, persone neurodivergenti e bambine, nel senso che in realtà anche la questione della vittimizzazione in base all'età, cioè comunque tutte quelle categorie per cui sei, no, adesso c'è questo termine che mi fa impazzire, la persona speciale, che pare una categoria carceraria, mi fa venire i brividi, ma per cui c'è sempre qualcuno che parla di te che non sei mai tu. Le giornate mondiali, la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, boia mondo parlasse mai una persona autistica. Ovviamente ci sono le iniziative autogestite, ma non sono quelle del comune che illumina di blu, che è il colore della tristezza, perché sei il bambino nella bolla. E sono tutte quelle dinamiche che servono per ridurti al silenzio, che sono le stesse agite in generale sulle donne, cioè non cambia assolutamente nulla. Poi se sei pure femmina, ancora peggio, voglio dire. Non so, io vedo da persona disabile delle cose aberranti, so, per dire. Fai sport, che, però in un contesto che ovviamente è istituzionale, magari anche di alto livello, c'è sempre questa retorica del premio alla vita, del coraggio, che serve per dire che non vali niente alla fine, che le aspettative su di te sono talmente basse che uscire di casa è un atto di coraggio, che è la stessa cosa di quando ti dicono ma non uscire la sera da sola, ma ce l'hai il fratello, l'amico, il fidanzato, il marito. Se no, esatto, se no c'è lo sbirro che ci pensa lui, perché tanto ce lo mettiamo, che è la stessa cosa, ci mettiamo l'uomo di potere che ti difende, ci mettiamo il medico, perché poi molto diventa il potere delegato al medico, che intendiamoci, finché è fatto con coscienza dalla singola persona e ti migliora la vita, è una scelta, però spesso non è così, cioè cerchiamo la cura, che poi è la terapia di conversione per qualunque condizione di divergenza di qualunque tipo, che, senza che nessuno chieda alle persone interessate se vorrebbero cambiare cervello, corpo, cioè, ed è una cosa abbastanza, per dire, adesso una polemica che c'è stata a livello social, ma che è stata molto pompata da specialiste del settore, tra l'altro tutte donne, quelle che ho sentito mi ha fatto venire un po' i brividi sta cosa. 18 giugno, vabbè, le giornate mondiali fanno abbastanza ribrezzo tutte, però è stata l'unica scelta da persone autistiche che scelgono di fare la giornata dell'orgoglio autistico, vabbè, inserita nel mese del Pride, vabbè, anche questo istituzionale, però le stesse persone che il 2 aprile sbandieravano oh mio Dio, i bambini nella bolla, bisogna salvarli tutti, adesso dicevano sì, però non dite che siete orgogliose, perché Cioè, dovete capire che voi magari non avete disabilità cognitiva, ma c'è chi soffre, quindi non potete essere orgogliose di voi, perché ci sono i bambini e le bambine che non parleranno mai e voi state parlando al posto loro, non potete... gli stanno dicendo che possono piacersi, cioè mal che vada, voglio dire, sai che danno, no? Dire, puoi decidere di te, puoi piacerti, puoi comunicare in un altro modo, cioè, no, questo è un danno, questo deve essere silenziato dai medici. E a me sta roba, ed è la stessa dinamica, voglio dire, e secondo me dobbiamo stare molto attenti, perché sono cose interiorizzabili, cioè anche da, lo dico anche da persona, da donna disabile, voglio dire, come interiorizzi la paura di uscire la sera, interiorizzi anche, ma forse non riesco a fare questa cosa da sola, forse non riesco ad andare a pulire uno spazio da sola, banalmente a occuparmi di uno spazio nostro, perché non posso. E ovviamente questa cosa viene poi restituita anche tra compagni e tra compagne, come appunto mi rivendico di reagire alle dinamiche di potere anche all'interno di uno spazio, in qualunque forma vengano agite, e anche all'infantilizzazione. Scusate il pippone, come si spegne questa cosa? Io invece vi volevo dare semplicemente una notizia che io mi sono scordata di dirvi nelle varie ricerche per cercare di prendere tutti i punti in cui il potere in realtà appunto sta già chilometri avanti a noi. Ho trovato un sito che si chiama Analytica for Intelligence and Security Study. Analytica for Intelligence and Security Studies. E c'è un articolo che si chiama, andatevelo a leggere, Retorica anarco-insurrezionalista tra NATO Urban Operation in the year 2020 e Covid-19. E va, è tutto un articolo in cui fondamentalmente fa un mischione, perché chiama anarco-insurrezionalismo tutto quello che abbiamo fatto noi durante il Covid, cioè nel senso chiunque si è opposto al Green Pass, a quella roba là, vabbè, loro l'hanno messa, fanno questo errore, ve lo dico perché anche la Digos sta facendo, venendo a casa mia, tra l'altro, mi ha, comunque ho scoperto che io sono considerata anarchica. E non è neanche vero, quindi però fa ridere perché cioè, fanno tutto un mischione, quindi siamo tutti là probabilmente in quel fascicolo, sì, certo. E parla appunto di quello che è il è del 2021 questo paper e parla appunto di come di questa retorica secondo loro sia una retorica complottista che appunto a partire dalla critica alla NATO Urban Operation nel 2020, poi all'opposizione a quello che è le misure contro il Covid-19 eccetera eccetera, fondamentalmente noi anche se qua fa riferimento alla FAI poi a un certo punto cioè non hanno ben capito, io vorrei andarglielo a spiegare, poi non ho voglia, però veramente vorrei un attimo fargli dei disegnini con gli schemi, in cui vabbè, fondamentalmente dice che siamo pericolosi perché abbiamo capito che appunto ci mettiamo contro di loro e perché dice i nemici identificati rimangono i medesimi, è dimostrato dalle successive azioni intimidatorie nei confronti degli esponenti di Confindustria, seppur nuove giustificazioni anche i futuri bersagli di sabotaggio rimarranno invariati. Ci si devono quindi attendere vandalismi, sabotaggi nei confronti di quelle infrastrutture tacciate di permettere militarizzazione, sorveglianza e repressione, quali installazioni e attrezzature appartenenti alle aziende di telecomunicazioni o elementi riconducibili a organi statali. Quindi questo è il 2021, cioè sapevano già che comunque noi siamo contro questa roba, quindi questo per darci, cioè, esistono proprio canali privati, sovvenzionati ovviamente da agenzie parastatali, da università, che sovvenzionano questi gruppi di studio che si occupano di cybersicurezza, di controllo, eccetera, ovviamente prendendo, come abbiamo detto fino adesso, da quello che è Israele, e esistono un sacco di finanziamenti su questa roba, ho scoperto. Sicurezza, che ogni giorno ci sono 5 morti sul lavoro. Quello non è importante, Silvia, non gli interessa la morte sul lavoro, gli interessa semplicemente che loro ti possano controllare. Quella è allucinante, sì. È un esercito che monte solo quest'anno, che delle persone morte poi in modi è per questo che, no, la risposta della telecamera, prima lo dicevamo di battuta, alla violenza sulle donne, cioè non può essere una nostra risposta, un qualcosa che ci può far piacere. Vi dico una cosa che ha detto Noemi, che a me è piaciuta tantissimo, una sintesi. Tempo fa lei ha detto: volevamo riprenderci la notte e ci hanno lasciate sole con le telecamere. È vero, è questo, no? Noi volevamo riprenderci la notte, adesso siamo sole ma con le telecamere. Questo è il risultato. E non so se posso dire un'ultima cosa. È uscito anche il sole. E volevo farvi partecipi di una cosa che, su cui abbiamo riflettuto, e che è questa. Allora, in tutto questo percorso di analisi che abbiamo fatto, ci siamo accorte che le modalità con cui il neoliberismo sta assoggettando ancora di più e in maniera specifica gli oppressi e le oppresse sono in effetti modalità patriarcali, cioè noi l'abbiamo chiamata la patriarcalizzazione della società. Perché? Perché di fatto noi ci hanno sempre tenute sotto con la colpevolizzazione, l'infantilizzazione, lo stigma, dividendoci in donne di serie A e donne di serie B, e sante e puttane, e eravamo sempre quelle che sbagliavano, che non ne facevano una giusta, e però allo stesso tempo dovevamo dare il nostro lavoro gratuitamente, dovevamo essere gentili e non dovevamo essere la convivenza civile. Noi non dovevamo alzare la voce, come ha detto Noemi, e però dovevamo comprendere le ragioni degli altri, e però dovevamo farci un 4 sul lavoro perché dovevamo dimostrare quanto valevamo. E poi dovevamo anche accettare i rimproveri, i rimbrotti, stare al nostro posto. E il tempo libero e il tempo del lavoro non era mai diviso, noi dovevamo essere tutto il giorno e tutta la notte e tutta la vita sottoposti a giudizio, lavorare e sentirci gratificate solo per il posto che avevamo. Questo è quello che il neoliberismo ha trasferito pari pari a tutta la gente, tutti gli oppressi. Quindi i maschi adesso, noi siamo femministe, sì, dovrebbero fare una riflessione per conto loro, però glielo stanno facendo anche a loro. Quindi questo non è... Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti, perché questo è un impianto colpevolizzante che poi produce insicurezza, colpevolizzazione, sudditanza, e non solo, ma per esempio le donne sono sempre state spinte ad essere controllori delle altre donne, nel senso sono le donne che dicono: ah, quella si comporta male, quella è una puttana, quella la la la la. Così i poveri contro i poveri, hanno messo i poveri contro i poveri, quello la la la, lì sono i migranti, è colpa sua, mi porta via al lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di impianto loro lo stanno trasferendo pari pari a tutta la società. Sarebbe bene che appunto tutti tutti ne prendessero coscienza, perché questa è la strada maestra per non riuscire a ribellarsi. Noi ce l'abbiamo messo di tempo, ci hanno bruciate sui roghi, ce l'hanno fatte di tutti i colori perché eravamo fuori dalla norma. Non credo che adesso dobbiamo aspettare di ridurci di nuovo in questo modo. Oltretutto, questa invece è una nota, mi è capitato di leggere un libro che è piccolo, che teoricamente non c'entrerebbe niente con quello che diciamo e quello che facciamo, però si chiama Cuor di gallina ed è di una sociologa che praticamente racconta la storia della gallina da quando era libera nelle foreste orientali a quando è stata messa in gabbia a quando poi è stata messa praticamente in galera e nei lager degli allevamenti, come noi. Cioè, se non vogliamo fare questa fine, diamoci da fare. Viva le galline! Viva le galline! Ecco. Viva le galline che si ribellano! Sì, lo chiamano lavoro informale, adesso molti dei nostri fanno lavoro informale. Sì, la lavoro non pagato, sottopagato, è lavoro informale. L'informalizzazione del lavoro come tendenza generale a livello mondiale. Sì, sì, già lo vedono. Ma anche il lavoro di cura nel momento in cui il welfare viene meno e si va verso la telemedicina, che anche nei piani europei triennali della digitalizzazione è prevista, e quindi anche noi andiamo verso quello, e quindi telemedicina significa che non è assistenza sanitaria, tradotto. Di conseguenza, su chi ricade nel momento in cui nella famiglia a lavorare sono entrambi, quindi sia la donna che l'uomo, se si tratta di una famiglia tradizionale, comunque siamo tutti oramai sulla stessa padella, anche la cura ricadrà sull'uomo, certo, perché nel momento in cui i genitori, i parenti, noi prossimi non hanno più un welfare a cui fare affidamento, ovviamente la cura ricade su tutte e tutti noi. Infatti, e poi già da anni negli Stati Uniti, per esempio, le compagnie che fanno strumenti per gli ospedali, per le case farmaceutiche, già stanno adattando strumenti uso famiglia, per cui la dialisi non si farà più nella clinica ma si farà in cucina, per cui già, quindi infatti già adesso il tempo che si passa nell'ospedale dopo un'operazione si è ridotto moltissimo, ti mandano a casa proprio sanguinante, e poi appunto tutta una serie di operazioni, fai tutta questa ideologia che ci sbandieravano anni fa, no? Che adesso no, il lavoro domestico esce di casa, quindi la casa si libera di moltissimo. In realtà moltissimo è tornato a casa. Non si vede tutto il lavoro domestico perché oggi si fanno tante mansioni che una volta non si facevano, come per esempio tutto il fatto di curare gente che una volta stava una settimana di più in ospedale. O adesso tutte queste manovre per fare sì che sia la famiglia che si occupa addirittura di cose che una volta richiedevano una competenza. Infatti, con questa tendenza che io, come dire, ho sperimentato e che insomma ho analizzato, credo che sia ancora di più importante reagire cercando di costruire delle reti di comunità reale tra le persone. Perché altrimenti veniamo completamente schiacciati e con malessere, perché poi ci ritroviamo a vivere individualmente o nella famiglia che tanto si è cercato di decostruire come unità di gestione delle nostre vite, però poi nella pratica ci si ritrova solamente in quel contesto. Assolutamente. E mi riferisco... Non c'è una dimensione comunitaria. Non c'è una dimensione comunitaria, non c'è una... condizione di esistenza e condizione di lotta. Sì, esatto. Sì. Condivido. E questo... Sì. Soprattutto appunto per quanto riguarda, lo vedo, la cura dei bambini piccoli e delle persone anziane. Sì. In quelle due fasce questo diventa emergenza proprio, secondo me, nell'oggi. Sì. Diciamo che però bisogna stare molto attenti, nel senso che il concetto di comunità è legato a un'idea comune, cioè la comunità nasce su un progetto politico, perché altrimenti, ah, certo. E no, perché siccome è il potere che si muove in questo senso, no? Cioè il potere ti dice sempre che c'è un bene comune di cui tenere conto, noi dobbiamo lavorare per il bene comune, però se si dimentica che la, però lui vuole far dimenticare che la comunità si parte da un progetto condiviso, comune, di classe, di genere, e non dal progetto com'è al servizio del capitale. Questo verrà fuori in maniera molto forte nella città dei 15 minuti, perché per esempio noi abbiamo il problema di Roma. Allora, Roma è una città che si presta a essere divisa in quartieri con una forte identità, perché già hanno una forte identità, cioè c'è il centro storico propriamente detto, che sarà blindato e con i palazzi del potere non c'entrerà nessuno, però ci sono i quartieri, allora c'è Trastevere, c'è Testaccio, c'è il Pigneto, c'è Centocelle, c'è la prima periferia, la seconda periferia, ma i Parioli stessi sono quartieri delimitati territorialmente con una forte identità, che si prestano a essere lavorati come città dei 15 minuti, al di là della grandezza poi di Roma. Però questa possibilità di farne dei ghetti o di farne dei luoghi di ribellione dipende dalla capacità che abbiamo di chiarire questo concetto di bene comune. Perché? Perché lì dentro c'è un associazionismo di svariata natura che lavora nel quartiere. Siccome sono quartieri di forte identità, cioè quelli di Centocelle si sentono di Centocelle e lavorano volentieri insieme, se l'associazionismo sarà dalla parte del potere sarà un disastro. Se noi riusciremo a trascinare l'associazionismo o comunque una parte in maniera antagonista, allora forse c'è un modo per uscirne, per farne dei quartieri che si ribellano. Grazie della presentazione. No, condivido. Stiamo valutando il fatto che questa esasperazione della parola e del concetto di comunità si esaspera sempre più e viene sempre più avanti nella misura in cui calano i diritti di welfare. Allora c'è un utilizzo amministrativo e politica del concetto di comunità e del concetto di rete molto pericoloso, e che è proprio anche delle associazioni di volontariato che stanno venendo avanti. Io sono molto preoccupata, nel senso che noi non stiamo capendo il tranello in cui stiamo vivendo. Allora, anche perché il lavoro di la comunità non viene per via amministrativa, avviene per via sociale, per via relazionale, e vuol dire nella relazione tra gli individui e tra le donne. Il fatto che le nostre amministrazioni stiano esasperando sul concetto della costruzione di comunità per via amministrativa, allora il quartiere, io lo trovo un pericolo che noi non stiamo valutando nella sua finalità complessiva: meno welfare, meno diritti, più volontariato amministrativizzato, che è diverso, e quindi via andare, quindi ti troverai senza reti, senza welfare e da solo. Le donne ancora di più. Discorso della cura che si trasferisce agli uomini. Noi vediamo a Parma la Barilla, Chiesi, fanno tutti a gara, danno i congedi alla paternità e poi danno i premi, tutti i premi che non vanno in via pensionistica. Ti do un premio adesso, ma il tuo stipendio base resta quello. Ecco, io non so quanto anche noi come donne riflettiamo su questi giochetti, che sono molto pericolosi. Una riflessione in merito al sistema, cioè allo Stato che si sta muovendo ormai su un doppio binario. Abbiamo il binario esplicitamente repressivo, cioè fatto di inchieste, denunce e carcere, e abbiamo poi il binario che io definirei mellifluo, cioè che si basa sulla sostenibilità, sull'inclusività tecnocratica, mi viene da dire che poi è dittatorialmente inclusiva, che poi se non ci stai a quelle regole sei fuori, cioè se non ti fai lo speed tu certe cose non le puoi più fare, e anche sul concetto di responsabilità. E però a fronte di questo Stato che si muove su questo doppio binario sempre più invasivo e sempre più non manifesto, cioè non riconoscibile in maniera immediata, mi mettono in difficoltà alcune forme, alcuni modi di intendere la lotta ed anche l'autodeterminazione. E, due esempi mi vengono in mente. Il primo è il diffondersi sempre più, forse io lo noto sempre più perché ci sto praticamente a te, cioè mi sta praticamente a cuore, di gruppi femminili, cioè di percorsi femminili che si basano su fantomatiche caratteristiche innate o comunque proprie della donna, che poi sono l'introspezione, la sensibilità, la disponibilità, gli stessi su cui si sono passati secoli di oppressioni, ma adesso noi ce li dobbiamo pure rivendicare, che poi altro non sono che un modo di depoliticizzare lo stare tra donne, cioè la lotta è uno. E poi la seconda cosa che mi mette molto in difficoltà, perché poi sono anche in difficoltà sul come controbattere, lo vedo a scuola, su ad esempio la richiesta da parte dei giovani, delle giovani, di sostegno, ad esempio sostegno psicologico. Quindi tu devi riconoscere il mio disagio, ci mancherebbe, però invece di ritrovarsi autonomamente e discutere sulle cause del disagio e dirsi ok, combattiamo le ragioni sistemiche che fanno sì, no, chiedo lo sportello psicologico alla scuola. Quindi confermando che l'orizzonte di senso non viene messo in discussione, cioè è quello proposto dal capitale, dallo Stato, eccetera, eccetera. Ed è una situazione che a me sta mettendo molto in difficoltà. Passa anche qui per le scuole queste grosse medicalizzazioni, bambini che prendono 10 pillole, perché da noi per esempio ci sono ormai per gli 8-9 milioni di bambini che a partire dai 4 anni che prendono 6-7 pillole antidepressive, contro gli iperattivi, dislessici, cioè, c'è stata una medicalizzazione dei bambini, no? Tutto un tratto nello spazio di 2 decadi ci sono tutti questi bambini che hanno problemi psicologici. Allora, chiaro che c'è un problema generale delle famiglie e quindi i bambini anche ne risentono, però c'è appunto questo uso istituzionale proprio dei farmaci come sistema di controllo pazzesco. I farmaci credo meno, però i farmaci probabilmente meno, però l'idea del, cioè secondo me sta passando un po' l'idea del bambino come, cioè è parallelo al ciclo medicalizzato, il bambino come corpo da controllare, soprattutto appunto il bambino che non sa parlare perché ha un disturbo del linguaggio, allora 100 esami perché sennò non mi può dire che sta male, che anche è vero, però cioè, non è che poi lo devo far vivere in ospedale, coraggio. E sempre delegato, per me ha detto lo specialista, cioè io sento molto, poi insomma seguendo un po' la questione da quel punto di vista, questo lo sento molto, i farmaci secondo me meno rispetto a questo. Allora, da quello che ci fa molto meno, però, come dire, nascondono, diciamo, l'essere iperattivo sono tutti sindromi, malattie un po' a volte forzate che nascondono, che vengono attribuite per nascondere una situazione sociale della famiglia di provenienza, perché non c'è il welfare che può sostenermi, non ci sono abbastanza personale educativo di sostegno ad esempio, quindi c'è a fronte di una povertà che avanza e quindi situazioni sociali che non riescono a aiutare i bambini piccoli, no? Perché lì che c'è lo scatto, c'è lo stigma dell'autistico, dell'imperativo e quindi entra in sanità, il male sanitario. Però molto meno che penso che... Non sono d'accordo, secondo me molto meno a livello di farmaci. A volte però la certificazione a me sembra l'unico modo per rendere consapevole il corpo docente che esistono delle differenze, che deve avere un occhio, un'attenzione maggiore alle differenze che già ci sono tra le persone, diciamo, tra gli studenti, le studentesse, tra tutte le persone, perché altrimenti, se non vincolato e non obbligato, non avrebbe mai quella sensibilità, quella ricerca, quello studio personale che deve fare in più anche per aggiornarsi, perché le cose stanno cambiando, no? E quindi è il modo per avere obbligatoriamente quel tipo di attenzione, di riguardo. Ma l'impressione anche, cioè tipo io ho appena finito di studiare l'università di psicologia e da quello che mi sembra anche dall'interno è che si stia passando sempre di più da un approccio alla psicologia del benessere e con una base sociale che quindi vada, come dire, a sostegno degli strumenti che le persone possono sviluppare per poi scegliere nella loro piena autodeterminazione come agire per stare bene, a una psicologia più medicalizzata e classificante, nel quale tutto il, tra virgolette, potere, non saprei come definirlo meglio, viene dato allo specialista e la persona viene un po' tolta dalla responsabilità di se stessa e di quello che può fare di sé. Non lo so, questo è un po' quello che mi sembra di percepire in ambito accademico. Non so chi tocca. Ma anche a cascata sulla cura di noi stessi è un po' così. Non so se capita anche a voi che il medico non sia più la persona che ha presente chi sei tu e tutta una serie di problemi che tu hai e che quindi faccia delle ipotesi scientifiche, delle ipotesi che poi vengono confermate in analisi, ma che ti mandi direttamente allo specialista per ogni tipo di problema, da un'otite a una... Il test è lo specialista. Sì, non si parla guarda, più. Il test dirà, cioè, questa è un'altra cosa. Chi deve... Chi voleva stare? Sì, in generale comunque c'è come una tendenza per cui il bravo genitore, sempre per ritornare alla categoria di bravo cittadino, brava persona che si comporta bene, in realtà è colui che appunto prende e va dallo specialista appena c'è un problema comportamentale, perché questa società è diventata molto più rigida. Mi viene da fare un parallelo con quello che erano le società dei primi anni 50, cioè nel senso con veramente il maestro con la bacchetta. Non ci sono più le bacchette, cioè in alcuni casi ci sono ancora le bacchette a quanto pare, però tendenzialmente c'è un giudizio nei confronti del comportamento del genitore, per cui il genitore che ha il minimo problema va a far subito visitare il proprio figlio per capire qual è il problema, da dove viene, per cui anche mi è capitato di vedere anche in situazioni di separazione di due genitori, bambini con un disagio, perché appunto questa situazione ha creato dei disagi importanti nella gestione di questo divorzio, e la modalità che si usa è quella di far vedere da uno specialista, un neuropsichiatra, il bambino per capire che nome dare a quel problema, in modo tale che il genitore si senta giustificato nel poter dire mio figlio però è così, gli do un'etichetta. Cioè questa ricerca di dare delle etichette già da subito per non giustificare, cioè nel senso si fa un po' tutto un grande malloppo di cose, una palla gigante dove non si distingue più il fatto che il bambino, le bambine si possono esprimere in maniera differente il loro disagio e quindi il loro spazio, come dicevamo prima, il loro tempo per recuperare, ma si preferisce utilizzare la specializzazione medica per categorizzarli, dargli un'etichetta in modo tale da cioè metterli insieme e segnarli così. Non c'è più, più spazio ed è quasi che questa sorta di mi sembra che ci sia più un'idea di infanzia che sia stata costruita a tavolino in realtà prima dalla borghesia, poi è stata sussunta comunque dal neoliberismo e quindi l'infanzia è diventata una categoria commerciale, per cui essendo una categoria commerciale ha delle sue regole, ha delle sue etichette, per cui questi bambini comunque percepiscono già da subito questa possibilità di avere problemi, di essere emotivi, ma non è in una funzione, diciamo, positiva o di coscienza di sé, che sarebbe buono, ma è in funzione del io ho il mio ruolo, io sono questo, io sono bravo, io mi comporto bene, io non faccio casino, io ho questo problema, quindi di conseguenza farò così, perché sono, ho questa diagnosi. E quindi è abbastanza complicato gestire queste cose, perché non abbiamo più, secondo me abbiamo molti pochi strumenti per rompere questa cosa, anche perché questa è la mia percezione personale, mi sembra molto che siamo stati schiacciati da, cioè siamo state schiacciate dalla società, abbiamo comunque rotto con, come è giusto che sia, con quello che è no, i genitori, quindi il lasciare la famiglia, creare nuovi presupposti, nuove cose, e adesso siamo anche succubi del fatto che dobbiamo in qualche modo seguire questa strada di educazione che non ci piace, ma non abbiamo modo di romperla, se non diciamo quatto quatto, però è molto complicato, perché comunque sono i primi bambini già dalla scuola ad essere inseriti in questo sistema, e quindi a richiedere loro, a sentire loro come funziona, perché sono le maestre che dicono, no? Comunque, volevo dire, anche se ci siamo accorti un po' della penalizzazione femminile su questo problema dei bambini, perché noi parliamo di un autismo che colpisce il 7 su 10 bambini e sotto sopra c'è sempre un discorso sul materno. Guardiamo, osserviamo adesso, noi abbiamo in giro da 3 o 4 mesi 4-5 guru maschili, Galimberti, Crepe, Recalcati, tutti maschi, psico, eccetera, che leggono, io dico dal maschile, insomma anche questo problema ad esempio, e la mamma non ha tempo, ma te ti interroghi cos'è la vita quotidiana di una donna? Ma te sai che cos'è? Ma quanto voi avete allevato i vostri figli se siete in giro tutto l'anno in tutto il mondo? Quindi noi cadiamo in questo, con gente che prende 5.000 euro a venuta, non pensiate che vengano a 500. Allora, questa invasione di guru al maschile che leggono ciò che succede ai bambini, non agli adulti, non alla qualità di vita delle donne a cui le donne sono costrette, e su questo ragionano sui bambini, e se, voglio dire, tu hai 7 bambini su 10 autistici, ti dovrei ben interrogare cosa sta succedendo nel sociale, nel paesaggio sociale oggi. Non è possibile preoccuparsi giustamente solo di diagnosi, di stradiagnosi. Il problema non è lì, c'è qualcosa che non funziona nella vita adulta e nella vita adulta di chi è stato obbligato a curare fino ad oggi e che sta cercando in qualche modo di tirare sulla testa. Io vedo questo continuo, vedo a Parma, sarà la quarta volta che viene Galimberti, Crepè e Recalcati, non se ne può più, insomma, di questi uomini che vanno in giro a raccontare queste storie. Andateglielo a dire, che non è. Ah, certo, poi non ci vado neanche, non ci vado più. Beh, a me mi ha colpito sempre tantissimo una cosa rispetto a quanto all'attenzione adesso spropositata all'infanzia, e che fa capire che il sistema di potere usa questa attenzione all'infanzia per degli scopi precisi, perché altrimenti non si capisce tanta attenzione all'infanzia e tanto disprezzo per questa infanzia che poi diventerà grande, cioè tanta attenzione al bambino che deve essere curato in tutti i modi, in tutti i possibili, tutte le possibili maniere, però poi quando diventa grande può finire sotto i ponti. Grazie, non lo so. Quindi è chiaro che la cura dell'infanzia gli serve per costruire un cittadino che è disponibile sempre a farsi curare, essere sottomesso, a farsi inserire negli schemi, a abituarsi a rispondere agli esperti e anche abituarsi a approfittare accettare del ruolo in cui viene inserito, perché anche questo è un meccanismo, non so, a me è successo di aver purtroppo con molto dolore la percezione che, per esempio, molte donne rimangono in uno stato di vittimizzazione rispetto a una violenza che subiscono, perché lo Stato la riconosce come vittima e lei, finché è vittima, è riconosciuta dallo Stato. Nel momento in cui si autodetermina e dice basta, allora lo Stato non interessa più. E poi adesso mi viene in mente questa cosa, non so se ve la ricordate, ma durante il Covid, almeno qua in Italia, ci sono stati almeno un paio di casi di minorenni che hanno, col sostegno dello Stato, denunciato i genitori che non volevano farle vaccinare. Quindi adesso sono addirittura i ragazzini che sono talmente tanto indottrinati che denunciano i genitori che si oppongono allo Stato. Vabbè, ma lì ti tolgo da una... cioè, com'è, io t'ho fatto? No... Anche nei luoghi pubblici magari mettevano tavolini fuori, ma non c'è mai stata, i parchi erano sempre pieni, i negozi erano, non l'idea, cioè non so come sono riusciti a imporre di avere un pezzetto di carta che dice dove vai, cosa fai, perché sei in strada. Cioè, cosa è successo in questi anni che sono riusciti ad avere questo livello di controllo sociale? Con questo io non l'ho capito. Non so se sono la paura, non lo sappiamo neanche noi, ce lo chiediamo anche noi, che poi l'abbiamo comunque dovuto subire e non eravamo d'accordo. E forse è stata la paura di morire, la paura delle conseguenze, delle minacce dello Stato, non lo so, perché effettivamente è successo subito. Cioè, nel momento in cui è passato il primo DPCR, da lì non si è mossa più una foglia. Perché noi ci sono riempiti i parchi proprio perché in casa, nei luoghi chiusi, era più facile la comunicazione, invece fuori. Non sarebbe stata la cosa migliore. Era molto più sana, e quindi i parchi tutto un tratto erano pieni di gente. In verano e estate la gente andava nei parchi, così si poteva respirare, parlare, camminare. I bambini hanno fatto impedire così perché spesso affidarsi a nonni che erano considerati dei soggetti maggiormente a rischio, quindi i bambini erano maggiormente reclusi perché non avevano i nonni. Sì, io ho un grosso esperimento sociale, sì, questo che in qualsiasi momento possono dire che c'è un'epidemia. Noi ce l'eravamo un po' ragionata collettivamente anche come durante i nostri allenamenti, e ci siamo soffermate anche a leggere, se non era dal Calibano della Strega, aiutatemi, quando si raccontava della peste, no? Tu raccontavi di quando c'era stata la peste e c'era tanta paura della morte perché c'era la peste, però la reazione della gente era stata completamente l'opposto. Tanto dobbiamo morire, riprendiamoci tutte le nostre libertà. Invece ora che cosa è successo? Quindi anche questa domanda aperta, insomma, abbiamo lasciato. E un po' forse tutti i meccanismi che sono stati descritti, che ha messo in atto il potere negli anni, ci hanno portato in questa direzione. Sì, infatti secondo me è molto questo, nel senso che la perdita di capacità critica non è di adesso, è un lavorio lento che ha fatto il sistema di potere come reazione alle lotte degli anni 70. Ha cominciato subito a demonizzare tutti i sistemi organizzati di pensiero, cioè ha demonizzato il comunismo, ha demonizzato perfino la religione, cioè tutti i sistemi in cui l'essere umano poteva, il cittadino, la persona, poteva riconoscersi come disegno collettivo, nel senso che l'individualismo portato avanti dal neoliberismo è stato il risultato di questo lavorio, cioè tutti i sistemi in cui l'essere umano si poteva riconoscere sono stati demonizzati in un modo o nell'altro. Allora, la persona sola poi che cosa ha fatto? Ha trovato, non dico normale, ma l'ultimo appiglio, quello di aggrapparsi allo Stato che si poneva come etico, quindi come depositario del bene e del male, e alla scienza che lui presentava come neutra e quindi come affidabile al di sopra delle parti. È successo questo perché altrimenti, cioè dire che si sono persi che si è persa coscienza politica, è vero, però la coscienza politica non era di tutti, era di fasce politicizzate in un certo modo, mentre però il riconoscersi in progetti collettivi è un'esigenza che è un po' dell'essere umano, perché l'essere umano è un animale sociale, al di là del fatto che poi il gruppo sociale in cui si riconosca sia di difesa o di offesa, di destra di sinistra, reazionario o libertario, non è questo, è che l'essere umano, siccome non ha né le squame, né i denti, né le unghie, né le zanne, come difesa ha il gruppo, e quindi riconoscersi in un gruppo è sempre una garanzia. Questa garanzia è stata distrutta mattoncino per mattoncino dal sistema dopo gli anni 70 e ha lasciato come appiglio solo lo stato etico e lo scientismo. È per quello che si sono aggrappati così. Per fortuna un minimo di crepa in questo tipo di impostazione è venuta fuori, perché dopo la pandemia sia lo Stato che lo scientismo hanno perso credibilità, cioè delle crepe sono venute fuori, e questo per fortuna è un qualcosa che sta camminando, ecco. Però noi dovremmo dargli un progetto politico, cioè il progetto collettivo dall'altra parte non c'è, e questo è il problema. Io devo andare. Voglio solo due cose molto brevi. Una, che voglio, spero di stare in contatto poi con Federica e magari in queste sere ci vediamo. E l'altra cosa, ci sono tante cose, comunque un progetto che abbiamo, che ho con compagni in Spagna, è questo progetto della memoria delle streghe, no? Perché anni fa abbiamo fatto un giro, specialmente al nord, al confine tra la Francia e la Spagna, dove ci sono state caccia alle streghe, e abbiamo visto che se ne è fatto un uso turistico, si vende la strega, col sorriso satanico, il cappello, cose orrende. Siamo tornate a Madrid e abbiamo fatto una chiamata ai collettivi e abbiamo lanciato questo progetto Memoria, che sono 3 anni che ci incontriamo e si stanno facendo delle cose molto belle. E dalla Spagna abbiamo cercato di allargare, sono venute compagne dalla Svezia, poi una compagna dall'India e una compagna argentina che è a Napoli, e si chiama Domina Tassinari, e lei, una cosa a cui si è molto interessata riguardo all'Italia, no? Ha scoperto che in molte parti d'Italia tuttora il 6 gennaio si brucia la vecchia. Sì, si brucia la vecchia. Io sono caduta dal cielo quando l'ho sentito. Ma come? A parte la misoginia, a parte l'attacco alle donne anziane, a parte, mi sembra una cosa talmente barbara e talmente violenta nei confronti delle donne, che abbiamo subito detto dobbiamo fare qualcosa, ecco. E lei infatti in questo sta cercando di contattare vari compagni in Italia, perché poi ha scoperto che si sta facendo un po' da tutto, persino a Padova, in vari... Ovviamente il sud si vince alla Quaresima, cioè alla Quaresima, alla fine della Quaresima. Alla fine della Quaresima. C'è questa signora anziana che viene attesa per le strade. No, ma cosa? C'è proprio una signora che viene Fa male vederlo, ma lo immagino, ma io non... Ecco, non c'è un problema di sapere. Allora, questa non è la sola cosa, ma comunque è una delle cose, so che vorrei mettervi in contatto con Romina, perché lei sta proprio facendo lavoro di contattare compagni per fare dimostrazioni, per come si brucia la vecchia, ma siamo folli, ecco. E comunque invece mi piacerebbe continuare, perché noi stiamo proprio lavorando su queste cose, vedere gli aspetti sistemici, no? la violenza del capitale in senso lato, perché poi anche tutta la militarizzazione, tutta questa guerra crea anche un concetto, un nuovo patriarcato, no? Crea anche tutta questa violenza. Ormai ci sono moltissimi uomini, anche donne, che hanno una familiarità con le armi, che ormai sono accostumbrati, non si dice accostumbrati, abituati a gestire i conflitti con le armi, no? Per cui anche il rapporto tra violenza individuale, violenza militare, violenza istituzionale è continuo, no? E questo poi di un movimento internazionale femminista contro la guerra. Questa cosa della Palestina, che non si parli, che non si osi dire la parola Palestina, che già abbiano, ma non so, avete visto fra l'altro queste mappe che hanno, negli Stati Uniti hanno circolato, dove c'è già tutta Gaza ricostruita, con le palme, con le strade, le piazze, ma cose di un orrore. Io sono cresciuta dopo il nazismo e dicevo, crescendo mi dicevo, ma com'è successo che abbiano potuto uccidere tutte queste persone? E la gente cosa faceva? Adesso lo vedo, adesso stiamo assistendo agli stessi processi. Allora ecco, che però la Palestina, io ho scritto in questo periodo che la Palestina è il mondo, perché c'è il Sudan, c'è il Congo, ce l'abbiamo nelle strade, a New York abbiamo ormai mille persone in strada. Adesso abbiamo tutti gli immigrati, che quelli che riescono a passare il confine, quelli che riescono, sono in strada. A New York, la grande mela, la città così, fonte del turismo, li mettono in strada. Allora il sindaco gli dà alle famiglie che vengono dal Venezuela, dal Guatemala, dall'Honduras, no? Che sono lì con un cartello in più. Un mese di rifugio se hanno bambini piccoli, 2 settimane se sono adulti senza bambini. Questa è, no? È la Palestina nel microcosmo. E questi sono lì seduti per terra con la qualcosa, vengono al Venezuela aiutati. A parte tutti gli altri, invece, addirittura poi nelle città dove il tempo è bello ci sono gli accampamenti. E lungo le strade la gente che dorme nelle macchine. Cioè questa è ormai, l'abitazione sta diventando un lusso. La casa sta diventando un lusso. Quindi l'urgenza di movimenti contro, è, non ci sono parole, perché ci stiamo avviando dove non solo l'ospedale è un lusso, la casa è un lusso. No? Anche mangiare. Il mangiare, ovviamente, il mangiare. Quante persone mangiano, no? In America si parla di milioni che non riescono a mangiare due volte alla settimana. Qui da noi la Caritas ha fatto l'altro giorno il resoconto, ha detto che dal 2023, con i mesi del 2024, sono aumentati i poveri che vanno a mangiare alla mensa del 45%. Sì, nei rifugi per i senza tetto New York un terzo è persone che hanno un lavoro regolare, ma non riescono a pagare, con quel lavoro non riescono più a pagare l'affitto. Quindi è questo. Quindi non è che ci siano prospettive per il futuro. Il futuro è un futuro molto, molto, molto duro. Quindi la... Sì. Boh, è stato già una cosa... E grazie Federica, Silvia. Beh, anche Federica. Sì, grazie Federica, grazie Silvia. Grazie George per la pazienza. Thank you George. E... Chiuderei leggendovi un testo di Audre Lorde dell'81. Posso prendere un libro? Sì, sì, ci faccio la grazie. Ciao, grazie Silvia. Sì. Sì, sì, ma non lo leggo tutto. Che si perdiamo. Ah, sì, sì. Ciao, ciao Silvia. E ogni donna ha un arsenale ben fornito di rabbia potenziale, utile contro quelle oppressioni personali e istituzionali che portano quella rabbia alla luce. Se indirizzata con precisione, può diventare una potente fonte di energia al servizio del progresso e del cambiamento. E quando parlo di cambiamento, non intendo un semplice scambio di posizioni o un temporaneo placarsi delle tensioni, e nemmeno la capacità di sorridere e di sentirsi bene. Sto parlando di un cambiamento di base radicale in quei presupposti che sono alla base delle nostre vite. La rabbia espressa e tradotta in azione al servizio delle nostre idee e del nostro futuro è un atto liberatorio e rafforzante di chiarezza, perché è nel doloroso processo di questa traduzione che identifichiamo chi sono i nostri alleati, con cui abbiamo serie differenze, e chi sono i nostri nemici.